devo scappare, non ti fermi mai. Lo so che non respiri neanche se non c'è lei. Conosco tutti i tuoi nascondigli, a chi mentirai? Da queste notti passate a fatica, chissà che cosa mi dirai tu. Insomma, sai.